143. Uova ripiene primo. Dopo aver assodate le uova come quelle del numero 139, tagliatele a metà per il lungo ed estraetene i rossi. Prendete un'acciuga per ogni due uova, lavatele, nettatele dalla spina e tritatele con poco prezzemolo e pochissima cipolla. Uniteci poi i rossi e tanto burro da potere con la lama di un coltello impastare ogni cosa insieme. Con questo composto colmate i vuoti lasciati dai rossi e le mezze uova così ripiene ponetele pari pari sopra un vassoio e copritele con la salsa maionese numero 126. Si possono mangiare anche semplicemente condite con sale, pepe, olio e aceto, che non sono da disprezzarsi, ed anche pare che lo stomaco non se ne mostri offeso.